prima che vi giungessi io. Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. 20ª puntata. La notizia del fallimento di tutte le mie speranze era già arrivata sino al mio villaggio natio e dintorni, prima che vi giungessi io. Trovai che alla locanda del cinghiale azzurro erano al corrente di tutto, e trovai pure che ciò aveva profondamente mutato il comportamento del cinghiale stesso nei miei riguardi. Mentre quando mi stavo facendo ricco il cinghiale aveva nutrito una buona opinione di me, con fervida costanza, lo stesso cinghiale si mostrò estremamente freddo, ora che stavo perdendo le mie ricchezze. La mattina dopo, di buon'ora, mentre mi preparavano la colazione, andai a gironzolare attorno a casa Satis. Sui cancelli e sui drappi penzolanti dalle finestre, dei cartelli stampati annunziavano per la settimana seguente una vendita all'asta di tutta la mobilia e le suppellettili della casa. La casa stessa sarebbe andata all'asta come materiale di demolizione, e quindi demolita. Lotto 1, era scritto a caratteri disordinati a calce sulla fabbrica di birra. Lotto 2, su quella parte dell'edificio principale che era rimasta chiusa per tanto tempo. Altri lotti erano segnati su altre parti dell'edificio, e l'edera strappata via per far posto ai castelli strascicava nella polvere. La cosa mi rese ancor più gradito il pensiero che mi recavo da Biddy e Joe, la cui grande indulgenza splendeva ancora più di prima. La giornata di giugno era deliziosa. Il cielo era azzurro, le allodole volavano alte sopra il frumento verde, e tutta quella campagna mi appariva bella e pacifica più che non mai, poiché nel mio cuore raddolcito dal ritorno era avvenuto un tale mutamento che mi sentivo come un essere che di ritorno da viaggi lontani durati molti anni ripercorra faticosamente a piedi nudi il cammino verso casa. La fucina era poco distante, e mi diressi là sotto i dolci e verdi tigli, tendendo l'orecchio al suono del martello di Joe, e mi figuravo di udirlo per poi accorgermi che era soltanto un'illusione. Tutto continuava ad essere silenzioso. Vi erano i tigli, vi era il biancospino, vi erano i castagni, e le loro fronde stormivano armoniose quando mi fermavo in ascolto. Ma nel vento di mezza estate non si udiva il suono del martello di Joe. Quasi timoroso, senza sapere perché, di arrivare in vista della fucina, la scorsi finalmente, ed era chiusa. Né vampa di fuoco, né abbagliante pioggia di scintille, né il rombo di mantice. Tutto chiuso e silenzioso. Ma la casa non era abbandonata, e si sarebbe detto che c'era gente in salotto, perché le bianche tendine palpitavano alle finestre, aperte e fiorite. Mi avvicinai pian piano, pensando di far capolino tra i fiori, quando Joe e Biddy mi apparvero dinanzi a braccetto. A tutta prima Biddy gettò un grido come se mi credesse un'apparizione, ma un istante dopo era nelle mie braccia. Piansi nel vederla, e lei pianse nel vedermi. Io perché lei aveva un aspetto così fresco e piacente, lei perché io avevo un aspetto così pallido e sfinito. «Oh, Biddy, come stai bene!» «Sì, caro Pip.» «E Joe, come stai bene anche tu?» «Sì, caro vecchio Pip, vecchio compagno mio.» Li guardai ambedue, volgendo gli occhi dall'uno all'altro. «È il giorno del nostro matrimonio!» gridò Biddy esultante. «Joe ed io ci siamo sposati!» mi avevano portato in cucina ed io avevo posato la testa sul vecchio tavolo di abete. Biddy teneva una mia mano sulle sue labbra e la carezza confortante di Joe era sulla mia spalla. «Non era abbastanza forte, mia cara, per sopportare la sorpresa», diceva Joe. E Biddy diceva: «Avrei dovuto saperlo, caro Joe, ma ero troppo felice». Erano tutti e due così traboccanti di gioia per avermi visto, così fieri di vedermi, così commossi per la mia venuta, così felici che per caso io fossi arrivato a rendere completa la loro memorabile giornata. Per prima cosa ringraziai il cielo per non aver rivelato a Joe quest'ultima speranza frustrata. Quanto spesso, mentre egli era con me durante la mia malattia, essa era affiorata alle mie labbra, ed egli sarebbe venuto a conoscerla, ahimè, in modo irrevocabile se fosse rimasto con me anche solo un'ora di più. «Cara Biddy», dissi, «tu hai il miglior marito di tutto il mondo, e se tu lo avessi visto accanto al mio letto, gli vorresti... ma no, non potresti volergli più bene di quanto gliene vuoi». «No, non potrei davvero», disse Biddy. «E tu, caro Joe, hai la migliore moglie di tutto il mondo, che ti renderà felice come meriti, caro, buono, nobile Joe. Ma devo dirvi altro. Caro Joe, spero che avrete dei bambini da amare, e che un maschietto si siederà in questo angolo del focolare in una serata d'inverno, a ricordarvi un altro maschietto che lo ha lasciato per sempre. Non dirgli, Joe, che io sono stato ingrato. Non dirgli, Biddy, che io sono stato poco generoso e ingiusto. Ditegli solo che io vi ho onorati ambedue, perché eravate ambedue così buoni e leali. E, essendo figlio vostro, sono sicuro che egli diventerà, crescendo, un uomo molto migliore di me». «Io non gli dirò nulla del genere, Pip», disse Joe da dietro la manica. «E neppure Biddy. E neppure nessun altro. Ed ora, sebbene sappia che lo avete già fatto in fondo al vostro cuore, così buono, ditemi tutte e due, ve ne prego, che mi perdonate, che io me lo senta dire da voi, che io possa portarne via con me il suono. E allora mi sarà possibile credere che in avvenire avrete fiducia in me e mi giudicherete meglio». «Oh, caro vecchio Pip, vecchio mio», disse John, «Dio sa se io ti perdono, seppure ho qualcosa da perdonarti». «Amen. E Dio sa se lo faccio anch'io». «E che Joe, Biddy? Ora permettetemi di tornare nella mia vecchia stanzetta a riposarvi qualche minuto, da solo. Poi, quando avrò mangiato e bevuto con voi, venite con me sino al palo indicatore, cari Joe e Biddy, e lì ci diremo addio». Vendetti tutto quanto avevo, misi insieme quanto più potevo per un concordato con i miei creditori che mi concessero tutto il tempo per ripagarli completamente, ed andai a raggiungere Herbert. Entro un mese avevo lasciato l'Inghilterra e dopo 4 mesi mi trovai ad avere una posizione indipendente e di responsabilità. Herbert era andato a sposarsi con Clara e da me solo era rimasta affidata la filiale in Oriente finché egli non ritornò con sua moglie. Passarono parecchi anni prima che io diventassi socio della ditta, ma vivevo felice con Herbert e sua moglie. Vivevo modestamente, pagavo i miei debiti e mantenevo una costante corrispondenza con Biddy e Joe. Non si pensi che la nostra società diventasse molto importante o che facessimo soldi a palate. Nonostante un modesto volume di affari, ci eravamo fatti un buon nome. Realizzavamo buoni guadagni e il successo ci arrideva. Ne eravamo tanto debitori all'attività e alla prontezza sempre allegra di Herbert che spesso mi rimproveravo di aver potuto, in un tempo ormai lontano, ritenerlo un inetto. Finii un giorno per concludere che forse l'inettitudine non era stata mai in lui. bensì in me. Ormai da 11 anni non vedevo con i miei occhi Joe e Biddy, quantunque ben spesso mi fossero stati dinanzi nell'immaginazione, in quei paesi orientali. Quando una sera di dicembre, un'ora o due dopo il crepuscolo, posai pian piano la mano sul chiavistello della vecchia porta della cucina. Lo mossi così dolcemente che nessuno mi sentì e potei guardare dentro senza essere visto. Lì, al vecchio posto, intento a fumare la pipa alla luce del focolare, sano e robusto come sempre, seppure un poco più grigio, stava Joe. E lì, rinchiuso nell'angolo dalla gamba di Joe, vi era seduto sul mio sgabello, intento a guardare il fuoco, vi ero io, di nuovo. Gli abbiamo dato il nome di Pip, caro ragazzo, disse Joe beato quando mi fui seduto su un altro sgabello a fianco del bimbo, ma io non gli arruffai i capelli, sperando che venisse un po' come te. E ci pare che sia così. Pareva anche a me. La mattina dopo lo portai a passeggio, facendo un mondo di chiacchiere. Ci comprendevamo a meraviglia. Lo portai al cimitero e lo misi su una certa pietra sepolcrale. Ed egli di lì sopra mi mostrò che la pietra era sacra alla memoria di Philip Pirrip, defunto già di questa parrocchia, e di Georgiana, moglie del suddetto. Biddy, le dissi dopo pranzo mentre la sua bimbetta le dormiva in grembo, dovrai darmi Pip un giorno o l'altro, o almeno prestarmelo. No, no, disse Biddy gentilmente, devi sposarti. Lo dicono anche Herbert e Clara, ma non credo che lo farò mai, Biddy. Mi sono così ben sistemato in casa loro che la cosa non è affatto probabile. Sono ormai un vecchio scapolone. Biddy chinò gli occhi sulla bimba, le prese una manina e se la portò alle labbra, e poi mise quella sua buona mano materna, con cui l'aveva toccata, nella mia. Vi era qualcosa in quel gesto, nella lieve pressione dell'anello matrimoniale, di veramente eloquente. «Caro Pip», disse Biddy, «sei sicuro di non tormentarti per lei?» «Oh no, non credo, Biddy. Parlami come ad una vecchia amica». L'hai dimenticata del tutto? Mia cara Biddy, nella mia vita non ho mai dimenticato nulla che vi abbia avuto una parte preponderante, e ben poco che vi abbia avuto una parte, sia pur piccola. Ma quel povero sogno, come una volta solevo chiamarlo, è finito del tutto. Biddy, finito del tutto. Ma nel dire quelle parole conoscevo la mia segreta intenzione di ritornare quella sera da solo alla vecchia casa, per amore di lei. Sì, proprio per amore di Estella. Avevo sentito dire che ella faceva una vita tribolatissima, che si era separata dal marito che l'aveva trattata con grande crudeltà e si era fatta la fama di essere un miscuglio di orgoglio, avarizia, brutalità e bassezza. Avevo sentito della morte di suo marito per il calcio di un cavallo che egli stava maltrattando. Questa liberazione era avvenuta già da 2 anni. Per quanto ne sapevo, ella poteva essersi già risposata. L'ora anticipata del pranzo in casa di Biddy mi lasciava tempo in abbondanza per recarmi laggiù prima di notte, senza dover abbreviare la mia chiacchierata con Biddy. Ma forse perché indugiai per via a guardare vecchie cose e ripensare al passato. Il giorno era ormai vicino alla fine, quando giunsi lì. Non era rimasto più nulla, né la casa, né la fabbrica di birra, né un edificio qualsiasi, eccetto il muro del vecchio giardino. Lo spazio sgomberato era stato circondato da un rozzo steccato, e guardando al di sopra di esso vidi che un po' della vecchia edera aveva rimesso le radici e stava crescendo, verde, sui bassi e immoti mucchi di rovine. Un cancello nello steccato era socchiuso. Lo spinsi ed entrai. Una fredda nebbia argentea aveva velato il pomeriggio, e la luna non era ancora salita in cielo a disperderla, ma le stelle brillavano al di sopra della nebbia. La luna stava per apparire e la serata non era buia. Potei rintracciare il punto dove era una volta la casa e dove la fabbrica di birra e dove i cancelli e dove le botti. Stavo contemplando un vialetto del giardino desolato quando intravidi una figura solitaria. La figura diede segno di avermi visto, mentre avanzavo. Mosse verso di me, ma poi si fermò. Nell'avvicinarmi riconobbi una figura femminile. Vidi che era sul punto di voltarsi e allontanarsi quando si arrestò, lasciando che io la raggiungessi. Vacillò come sorpresa, pronunciò il mio nome ed io gridai: «Estella! Sono tanto cambiata. Mi meraviglio che tu mi riconosca». E in verità il fulgore della sua bellezza era sparito, ma le rimanevano l'indescrivibile maestà e l'indescrivibile fascino. Queste sue attrattive le conoscevo, ma ciò che non le conoscevo era la luce triste e raddolcita di quegli occhi, una volta così fieri. Era il contatto amichevole di quella mano, un tempo insensibile. Ci sedemmo sopra un banco lì vicino ed io dissi: «Dopo tanti anni, è strano che ci dobbiamo incontrare nuovamente qui, dove avvenne il nostro primo incontro. Ci torni spesso?» «Non ci sono più tornata da allora». «Neppure io». La luna stava sorgendo e Stella fu la prima a rompere il silenzio. «Ho tante volte sperato e progettato di tornare, ma ne sono stata impedita da varie circostanze. Povera, povera vecchia casa». La nebbia argentea fu sfiorata dai primi raggi lunari. E gli stessi raggi sfiorarono le lacrime che cadevano dai suoi occhi. Non sapendo che le vedevo e facendo uno sforzo per frenarle, ella disse piano: «Ti sei domandato, mentre passeggiavi qui, perché tutto è in questo stato di abbandono?» «Sì, Estella». «Il terreno è mio. È l'unico possesso a cui non ho rinunciato. Ogni altra cosa se n'è andata, a poco, ma questo l'ho ottenuto. È stato l'oggetto della sola ferma resistenza che io abbia fatto in tutti questi tristi anni». «Vi si costruirà?» «Sì, presto. Sono venuta qui per prenderne congedo, prima del suo cambiamento. E tu?» disse con un interesse nella voce commovente per un viaggiatore. «Vivi ancora all'estero?» «Ancora». «E sei contento? Ne sono sicura». «Lavoro duramente per guadagnarmi da vivere. E perciò sì, sono contento». «Ho spesso pensato a te», disse Estella. «Davvero?» «Ultimamente molto spesso. Vi è stato un periodo lungo e doloroso, in cui tenevo lontano da me il ricordo di quanto avevo buttato via, quando ne ignoravo del tutto il valore. Ma da quando il mio dovere non è più stato incompatibile con l'accettazione di quel ricordo, gli ho dato un posto nel mio cuore». «Tu hai sempre conservato il tuo posto nel mio cuore», risposi. Rimanemmo di nuovo in silenzio, finché Estella parlò. «Non pensavo che avrei preso congedo da te nel prendere congedo da questo luogo. Sono felice che sia così». «Felice di separarci di nuovo, Estella. Per me la separazione è una cosa dolorosa. Per me il ricordo della nostra ultima separazione è stato sempre triste e doloroso». «Ma tu mi hai detto allora», ribatté Estella vivacemente, «Dio ti benedica, Dio ti perdoni. E se hai potuto dirmelo allora, non esiterai a dirmelo ora. Ora che la sofferenza, più forte di qualsiasi altra lezione, mi ha insegnato a comprendere quello che voleva dire il tuo cuore, sono stata piegata e spezzata. Ma spero in una forma migliore. Sii indulgente e buono con me, come eri un tempo, e dimmi che siamo amici». «Siamo amici», le dissi, alzandomi e chinandomi su di lei, mentre ella si alzava a sua volta dalla panchina. e continueremo ad essere amici, anche se divisi. Ripresi la mano nella mia e lasciammo quel luogo devastato. E come le nebbie del mattino si erano diradate tanti anni prima, quando per la prima volta avevo lasciato la fucina, così le nebbie della sera si alzarono ora. E in tutta l'ampia distesa di placida luce che mi mostrarono, non vidi nessuna parvenza di un'altra separazione da lei. Ad alta voce. Piero Baldini ha letto Grandi Speranze di Charles Dickens. 20ª puntata, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it.